Buongiorno a tutti, sono al telefono con Monica Di Sisto, professoressa, scrittrice di libri e vicepresidente di Fair Watch per il commercio internazionale per il clima, con la quale parliamo dell'evento del 6 e 7 maggio a Bologna, entrata di sicurezza organizzato dall'Emporio Camilla e al quale nel dibattito del sabato Monica farà il suo intervento. Puoi darci qualche anticipazione, raccontarci qualcosa sulle tue esperienze? Sì, diciamo che la mia esperienza viene un po' da lontano, nel senso che come molti dei fondatori di Camilla ci accomuna sia l'esperienza del commercio ecosolidale, quindi di questa pratica di importazione di prodotti a condizioni eque, che da tanti anni, quasi 50 anni, dimostra che è possibile fare un'economia giusta sia per chi produce sia per chi consuma, etica e anche ecologica. Chiaramente il mondo sta andando contromano, ce ne siamo resi conto qualche anno fa, no? Molte delle nostre organizzazioni hanno partecipato e sono nate sull'onda del G8 a Genova, dove si faceva una valutazione di questo avvicinamento globale tramite i mercati e non tramite la politica come di una possibile mina sia sulla tenuta futura della nostra comunità globale sia anche sulla tenuta dei mercati e soprattutto dell'ambiente sottoposto a un sovrasfruttamento di risorse. Entrata di sicurezza vuole essere un momento in cui si cerca di capire insieme appunto dove si entra in sicurezza, e se vuoi ti faccio un po' uno spoiler della risposta che vorrei dare, beh, un po' dove avevamo indicato anche 20 anni fa, ossia attraverso la strada dei diritti, del rispetto dei limiti dell'ambiente e dell'organizzazione diversa anche dei mercati, oltre che diciamo di un'analisi seria dei propri consumi per metterli in linea con appunto con quello che il pianeta può o non può sopportare, ma anche lavoratori e lavoratrici possono o non possono sopportare. Troppo spesso noi compriamo prodotti fatti da schiavi in modo molto superficiale, proprio per, come dire, per curare l'ansia di questo secolo così incerto, e probabilmente invece la risposta a questa ansia è in una vita più consapevole. Sì, Monica, ti volevo appunto sottolineare questa cosa, che concetti che partono da 20 anni fa, come tu stessa dicevi, e ad esempio il filosofo Stéphane Hessel nel 2010 diceva: indegnatevi, riferendosi alle giovani generazioni. Poi attualmente anche con i lavoratori del GKN abbiamo sentito insorgiamo, quindi occorre alzare la voce in questo momento, occorre essere più consapevoli degli acquisti che facciamo e anche agire politicamente nei confronti questo mercato globale. Sì, secondo me bisogna riprendere un po' le fila, perché quello che io intravedo, innanzitutto bisogna abbandonare l'idea che il voto col portafogli sia un'opzione per tutte e tutti. L'impoverimento generale della classe media, di tutte e tutti noi, fa sì che spesso non c'è un'opzione, anche perché i prodotti di un supermercato sono riconducibili essenzialmente a almeno di 9 gruppi finanziari e produttivi ciascuno, quindi l'opzione, diciamo, a meno che non si esce completamente, diciamo, da quel tipo di opzione, si entra appunto in Camilla, in reti come quelle cooperative, del mutualismo, eccetera, e nei mercati contadini che fanno proprio una scelta di rimanerne in gran parte fuori, e non si riesce a evitare di essere complici di questo sfascio. Ma poi c'è il problema più serio, che è quello di come ci organizziamo. Io sono molto gramsciana in questo. È vero che ci sono tantissime iniziative, i nostri giovani, più giovani, si sono presi delle grossissime responsabilità, un sacco di denunce, nonostante a volte vengano addirittura criticati, fanno quello che possono per alzare l'attenzione pubblica, dei media, ma anche delle persone normali rispetto alla crisi climatica e sociale che stiamo vivendo, però mi sembra che ciascuno continui un po' a fare quello che sa fare da solo. Una festa, e quindi un evento per stare insieme, per rassicurarsi, per fare comunità, credo che sia la scelta giusta in questo momento, bisogna stare insieme. Io ti ringrazio molto Monica, ti saluto e ci rivediamo a questa manifestazione, entrata di sicurezza, De Andrea direbbe in direzione ostinata e contraria, noi sempre. Siamo forti e vediamo di riuscirci. Grazie mille Monica. Grazie a te Edo Fujiko, come sempre, un abbraccio forte e ci vediamo a Camilla.